Siamo al telefono con Silvia Saccoccio. Buongiorno Silvia, benvenuta. Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, per tutta la durata del festival, La Violenza Illustrata saranno allestite due mostre realizzate dalle donne di Fili Urbani. La prima è al Centro Nova. Di che cosa si tratta? Allora, sì, la mostra ospitata al Centro Nova è un drappo realizzato interamente in mano dalle donne amiche attiviste di Fili Urbani e appunto rappresenta il volto di Nadia Murad, premio Nobel per la pace, se non sbaglio, nel 2017. Diciamo un'opera che vuole celebrare in qualche modo la forza delle donne e le battaglie, in questo caso portate avanti dalle donne per i loro diritti. Mentre al Centro Lame ci sarà una doppia opera. Al Centro Lame c'è una doppia opera, ci sono due installazioni realizzate sempre dalle donne di Fili Urbani e anche da un altro gruppo di bravissime lanite e artiste che sono che si chiamano Maglia Che Ti Passa. Anche questa è realizzata completamente a mano. Sono due opere, una senza scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le donne. In questo caso le scarpette rosse ormai da anni, grazie all'artista messicana Elina Chavez, sono il simbolo del femminicidio, appunto apice della violenza di genere. E l'altra installazione sono i sogni vestiti, sono dei veri e propri abiti realizzati anche questi all'uncinetto. E questi sono stati realizzati a partire da vecchi pizzi, tovaglie e centrine, sono stati raccordati insieme con l'idea di, diciamo, mettere insieme tempi e soggettività femminili differenti, che in questo caso è celebrare e omaggiare in qualche modo il diritto alla libertà e il diritto a sognare di tutte le donne. Quindi sono degli abiti che rappresentano un po' i sogni di ogni donna. Quali sono gli obiettivi principali di questi progetti, visto che ora, diciamo, fare le mostre è diventata una cosa abbastanza difficile, visto tutte le restrizioni a cui appunto tutti e tutte dobbiamo rientrare? Certo, in questo caso l'obiettivo, diciamo che in questo caso la mostra si trova in un luogo sicuramente meno frequentato rispetto a prima, quello dei centri commerciali, ma comunque un luogo che è anche molto frequentato proprio banalmente per la spesa di tutti i giorni e in qualche modo per noi, diciamo, rappresenta quasi un presidio trovarci lì con una mostra, quindi anche, diciamo, con un aspetto positivo che è quello dell'arte, no? Il fatto di poter stare lì e rappresentare un riferimento per una donna che in quel momento va a fare la spesa e potrebbe aver bisogno di casa delle donne, potrebbe aver bisogno del numero di telefono di casa delle donne, della mail di casa delle donne. In questo caso possiamo dire che ci siamo e che possiamo esserci se lei ne avrà bisogno. Certo, le mostre saranno visibili per tutta la durata del festival, quindi fino al 10 Fino al 10 dicembre. dicembre, sì, Ok. esatto. Aggiungo che il festival sta andando avanti, che anche oggi ci sono degli eventi, che potete collegarvi al sito www.festivallaviolenzailustrata.it per seguirci, per scoprire tutti i dettagli e gli altri eventi in programma.